sarebbe. Sia, ecco, non è vero impressionante, tanto i signori che se ne vengono a fare le vacanze già l'aumentano la cosa, per esempio a farci gli occhi del malato che ne venga più peso che più grande, e ci sono i poveri italiani, i poveri di tutta l'Europa che pagano a loro, che pagano in più la benzina, tutto qua, e che fanno tutti, questo qua. Ci vuoi fare, a guadagnare di più, Ciao, e fa così che si rimane migliore, sempre più male, più facile. Una volta che hanno detto, allora tu gli stessi un altro impegno. Da domani non facciamo più mangio, è tutta Italia. A briga passa la benzina, pare che li venga. Ma passi, tutti i domani, via. Sarai a passi, la benzina, pare che li venga. Questa è Italia. Sì, molto incredibile. Perché spesso sta la roba cosa sempre più cara, io me ne accorgo. Quando vado al supermercato, sono al cercatino così, c'è qualcosa che mi interessa, guardo, e dico, ma io non sarei come si fa, non si stava così, ma va tutta più, di più, è tutto un casino. Il grosso è un casino, sì. Dai. Adeguati alla vita che si vive adesso, perché non è più possibile. Bisogna fare qualcosa. Toccate attenti a tutte le cose, toccate attenti. Così Grazie. Francia va bene. Ho messo in funzione il tornado, Ah, va bene anche questo, Pierpa. Alla gara. Ecco, se tu parti sull'11 non ti sento più, Pierpa. No, non è prende, scusa. Negativo. Maus. Stavo dicendo, vedrai quanti anni ha Vivi. Ma quanti anni ha Bobo? Lei andava via a 30. Dimmi che cui va dove la di turista, però vedi che è sposato. La renda di te, ma non c'è che si è sposato. Era di tu che aveva moglie che avevano i pesanti. Cacciavite piccolo, tutto, sei tutto. Yeah. quando va a comprare una bottiglia di gas lo va a volare. Dipende da voi. Io ho detto, guarda, non so cosa. Vai, vai, vai. come 1, 2, 3, 4. Buono, buono questo. Forse è chiaro. La mamma. No, è positivo, quindi va bene. Ascolta, ma come mi Ciao, è cosa fa con i soldi? Ma questo non lo va nessuno, eh. valore. Anche se c'ha 40 canali, ma tu devi vedere quanto è bello di notte, tutto illuminato. Sono stati abbastanza a parecchiare cosa, ma non è bello. Perché faccio una fissa, capito, è monogatto, tu gatto, cosa? Va benissimo. Sì, va benissimo. Ma mi pare che sia un 73. Il 73. Cambio di anno. Hai visto? Non ho sentito cambio di anno. Funzionava sempre. A tu? Non ne basere più a parecchi usci, no. Questi che fate una lata, una parecchietti così, capito? Queste baracchine che fanno adesso. Non servono a niente. Sì, vabbè, la carità non può niente, attenzione. Però il buono deve avere questo dire. E che lasciano a voi, ma danno problemi, Sì, vabbè. Se fate un problemino, vanno, perché sono un po' più moderni, sono diverse cose. Vabbè, comunque non è questo che siano problemi. Cosa, io ci tengo alle radio, a tenerle ordinate, capito? Specialmente queste cose antiche, mi piacciono un bel. Chiaramente non mi piace averne tante, mi piace averne una e utilizzarla ogni tanto. Però già l'hai visto che è nuovo nuovo, Antuno, non è che è tenuto bene. Io la cosa la tengo bene, già lo sai, no? Non ne tengo roba, la roba mi piace tenerla pulita, ordinata e bella, sempre nuova, capito? E così con tutto, anche con la macchina, con tutto, con la moto. Sempre ordinato mi piace a tenere la roba. Mai a tenere la roba, a trascurarla, ecco, te voglio dire. Tutto lì, capito? Sì, sì, sì, io ho capito bene. Sì, anche io, se tu guardi l'apparecchio, guardi il microfono, no, non è meglio. Già l'ho visto che la tieni bene la cosa che tu. Anche io, sempre burendi, la polvo, cosa che vuol dire ogni giorno a pulirlo, a fare, capito? Vuol dire un bene. Praticamente se tu la cosa la tieni bene a tu, che un domani magari ti tuffi, non so, la vuoi prendere. La vedi sempre bene, perché la cosa è tenuta bene, capito? Sì. Prima c'è la bene la cosa. Ma tu perché c'è per me, perché se non fai più a pagare. Un anno fa se ne si pagano. Che è fatto che usci? È così. Più anni passano e più valgono. Adesso facciamo una perfezione, nuovissimo, tenuto veramente a opera d'arte, capito? Ogni tanto lo puli. Tu rimani sempre mezzo che fa. Capito? Tu vai al buio, tu, ma c'è quanto bello al buio, tutto illuminato. Ci potevamo cambiare gli speaker mio, tu. Sì, è questo che puoi cambiare. Però io ho fatto la licenza di trattati, già perché l'ho visto. Sì, questi qua, questi spagnoli. Sì, sì, sì. Ce n'è una che sta arrivando, Santiago 7, Radio 5 è qua. Molto forte. Ma Luca, quale sì, ha fatto? Yeah. che la vedi bene a tu. Ragazza, vado dai, noi siamo qua, una sola mezz'oretta. e poi me ne vado al computer. Sì, no, no, io mi sono rimasto un po' contatto in tutto, sto facendo storia e adesso mi vado un po' di tutti. Ragazza, vai fare a taglio per sempre. Non ci sentiamo mai, grazie, buonanotte. Va bene.